Abbiamo letto il professore in modo diverso, che si tratta appunto del tema esigenza e parola. La mia comunicazione riguarda tutto ciò che inevitabilmente viene taciuto quando si comunica utilizzando una lingua, e precisamente quello sfondo metafisico che è alla base di ogni lingua. Io taglio tutte le semplificazioni per ragioni di brevità, penso che poi compariranno nella pubblicazione. Ogni comunicazione avviene sulla base di presupposizioni che vengono date per scontate, cioè come evidenti. In questo senso si può dire che la parola è portatrice di evidenze, sia perché l'impiego di una lingua comporta l'adozione di alcuni lineamenti generali di una data visione del mondo, per cui parlare quella lingua equivale ad assumere come evidente e fuori discussione quei lineamenti, presupponendo in ogni comunicazione che abbia luogo nella lingua stessa. Sia nel senso che ogni messaggio linguistico suppone in più il possesso di informazioni addizionali rispetto a quelle contenute nelle strutture linguistiche, e suppone che siano accettate come fuori contestazione. In ogni comunicazione c'è sempre una trasmissione di informazioni, anche una comunicazione di carattere esortativo, gestivo, esorativo, valutativo, eccetera, contiene sempre la trasmissione di un'informazione. Nelle famose ricerche di Austin, intese a distinguere nel parlare l'atto illocuzionario dall'atto perlocuzionario e dall'atto locuzionario, proseguite dalle ricerche di Searle, di Katz, di Bass e di Harnish, hanno sempre messo in evidenza la componente constativa o informativa presente in ogni atto di parlare, per cui siamo assai lontani dalla vecchia tesi del neopositivismo prima maniera, secondo cui era possibile un parlare totalmente privo di senso informativo, come il parlare di etica o il parlare di metafisica. Ormai tutti i linguisti sono d'accordo che il primo universale linguistico di carattere semantico è che tutte le lingue sono meccanismi speciali di trasporto di informazioni, diversi dagli altri meccanismi semiotici che non sono lingue. Ma l'informazione non è realizzabile nel totale vuoto informativo. Essa suppone sempre nel ricevente un orizzonte di conoscenze fuori discussione. La lingua che viene impiegata nella trasmissione di una informazione contiene nelle sue strutture le presupposizioni più fondamentali e generali che vengono accettate da tutti coloro che se ne servono per formulare e trasmettere informazioni. Giambattista Rico ebbe una certa consapevolezza di ciò quando sostenne che è possibile ricavare dall'esame dei significati delle parole del latino arcaico, o diremmo noi dalla costituzione semantica di questa lingua, un insieme di convinzioni e di tesi che possono considerarsi come costitutive di una vera e propria sapienza attribuibile agli antichi popoli italici. La più nota di queste convinzioni o tesi è l'identificazione del vero col fatto. Secondo Rico, gli antichi italici usavano le parole verum e factum come equivalenti tra loro, e da ciò si può evincere che per gli antichi sapienti d'Italia il vero non è altro che ciò che viene fatto. Questa tesi, secondo l'esposizione di Rico, era accettata dagli antichi sapienti d'Italia non come il punto d'arrivo di un procedimento dimostrativo, ma come una convinzione o evidenza, ed era passata nella costituzione del significato della parola verum, presentandosi come evidenza di un uso linguistico accettato. L'insieme delle tesi soggiacenti alla costituzione semantica della lingua latina antica costituiva, per Rico, una vera e propria metafisica, come egli esplicitamente faceva intendere nella risposta a tre opposizioni fatte da Dotto Signore al suo libro, cioè una dottrina ammessa fuori di ogni discussione, quindi accettata come ovvia. Se estendiamo questa dottrina vigiana del 1710 alla concezione del divenire delle nazioni elaborate nelle varie edizioni della Scienza Nuova, dobbiamo procedere alla generalizzazione secondo cui ogni lingua possiede nella costituzione dei significati delle sue parole una metafisica o un insieme di tesi che vengono accettate come fuori discussione, cioè come ovvie e evidenti da chi utilizza quella lingua. Sebbene Rico non abbia proceduto personalmente ad una esplicita generalizzazione di tal genere, Non sembra che egli potesse coerentemente esprimerla. Ovviamente egli non possedeva tutti gli strumenti di analisi e non era sufficientemente avvertito sui problemi dell'analisi semantica perché potesse dare a questa generalizzazione la veste di una teoria ben fondata e persuasiva. Così non poté neppure chiedersi se le metafisiche soggiacenti alle varie lingue avessero tratti comuni di una metafisica universale del genere umano. Per questo senso sviluppo la sua tesi umanistica che la metafisica soggiacente alla lingua latina più antica fosse la più valida e sicura. Oggi l'intuizione di Diana può essere ripresa con una impostazione diversa che si avvalga degli sviluppi che la linguistica ha avuto negli ultimi 90 anni. Il ramo della linguistica che ci interessa è quello della semantica. Infatti, mentre gli altri due rami fondamentali, cioè la sintassi e la fonematica, contengono esclusivamente enunciati descrittivi traducibili in enunciati normativi riguardanti usi costitutivi dell'una o dell'altra lingua, la semantica contiene enunciati che, mentre si presentano come descrizioni o norme di usi, sono traducibili in aspetti sulla realtà. In prima approssimazione si può dire che le strutture semantiche di una lingua sono il sistema di rapporti esistenti tra i significati degli elementi morfologici e lessicali della lingua stessa, distinguibili come morfemi e come parole. A differenza dalle strutture fonematiche e da quelle sintattico-grammaticali, le strutture semantiche comportano qualcosa che riguarda non soltanto il comportamento di colui che parla, cioè i suoi atti di parlare, chissà, ma anche la costituzione delle cose di cui egli parla, nel senso che le cose sono visibili per lui nella lingua che usa, in quanto sono fornite di alcuni caratteri fondamentali, e questo è inteso come evidente e fuori discussione. Si badi bene che qui non si può parlare di semplici convenzioni linguistiche o sociali, perché fenomenologicamente non è il soggetto che vive la sottomissione a una convenzione, ma è la realtà che gli si presenta come evidentemente strutturata nel modo richiesto dalle strutture semantiche della lingua che gli utilizza. Per la determinazione di queste strutture si vuole oggi distinguere in una lingua due classi di segni, i designatori e i formatori, che ricordano vecchie distinzioni di logici tra termini categorematici e termini sincategorematici, tra segni descrittivi e segni logici, ma non coincidono propriamente con l'uno o con l'altra di esse. I designatori sono segni che possono trovarsi in un enunciato nella posizione di soggetto o di predicato, secondo l'analisi tradizionale, o in quella di argomento e di funzione, secondo l'analisi hasseliana. I formatori sono segni di Reis e Bass, seguito da Weinreich in linguistica, raggruppò nelle sottoclassi di operatori pragmatici, segni deictici, segni per operazioni proposizionali, quantificatori, segni puramente sintattici per l'organizzazione delle espressioni. Tanto i designatori che i formatori sono semanticamente ordinati a entrare in speciali combinazioni fornite in senso. Tali che il significato di ciascuna di tali combinazioni è funzione dei significati dei segni che entrano in essa. Questo comporta che ciascun segno, sia esso designatore o formatore, ha un valore semantico proprio, la cui conoscenza permette di capire ogni nuova espressione, semanticamente ben formata, che risulta di segni il cui significato è noto. Ma d'altra parte, i designatori e i formatori sono suscettibili di modifiche di significato ogni qualvolta dovessero entrare in combinazioni che si discostino da quelle solitamente impiegate. Una combinazione molto diversa da quella in uso apparirebbe priva di significato e verrebbe rigettata dalla comunità linguistica definita dalla lingua impiegata. Ma combinazioni leggermente diverse potrebbero essere tollerate senza rigetto, comportando come conseguenza una modifica del valore semantico proprio dei segni in esso coinvolti. Per quanto riguarda le evidenze che si accettano per il fatto stesso che si adopera una lingua, cioè per quanto riguarda le strutture semantiche di una lingua, i designatori nominali sono di primaria importanza. Essi costituiscono un insieme strutturato nel senso che sono legati tra loro da un sistema di relazioni che sono precisamente le relazioni di cui si è interessata la logica delle classificazioni fin dal tempo di Platone e di Aristotele. E il suo significato, un designatore nominale può stare rispetto a un altro designatore della stessa lingua come inclusivo, come compatibile o come esclusivo. Per esempio, nella lingua italiana, di uso comune, la parola leone ha un significato che include quello di carnivore, è compatibile con quello di giovane ed esclude quello di leggibile. Dall'enunciazione di tutti i significati che il significato di questa parola include, di quelli con cui esso è compatibile e di quelli che esso esclude, si ha che la parola leone designa delle realtà che entrano in una determinata classe, la quale è inclusa in altre classi, è inclusiva di altre ed è complementare con altre. Sebbene ci siano dei rapporti logici che nascono dalla distribuzione in classi e classi di classi subordinate possa essere formalizzato e considerato facendo astrazione da ogni lingua, questo comporta per ciascuna lingua che le cose vengano identificate e distribuite secondo una certa classificazione, per cui tra le cose stesse i suddetti rapporti logici creano condizionamenti e collegamenti che possono essere diversi, nel senso che dove una lingua può porre una fondamentale omogeneità attraverso l'uso di un unico designatore di livello specifico, un'altra lingua può porre una eterogeneità più o meno profonda attraverso l'uso di diversi designatori di livello specifico e ammettendo designatori comuni solo a livelli generici più o meno alti, oppure non ammettendo per niente designatori comuni. Il punto fondamentale è che quel campo di esperienza nel quale una lingua pone un designatore comune di tipo specifico viene vissuto da chi parla quella lingua come un campo di realtà evidentemente identico tra loro a livello specifico e specificamente diverso da altre. Per cui, essendo le varie specie in rapporto tra loro secondo i legami della logica classificatoria, si viene evidente che questa logica permette certi discorsi come validi e ne esclude altri come assurdi, non a titolo di semplici leggi linguistiche o di convenzioni grammaticali, ma perché le cose oggettivamente e metafisicamente stanno evidentemente in un modo e non in un altro. Ovviamente una lingua viva è sempre una lingua in cui l'uso modifica più o meno di tanto in tanto o lentamente la portata semantica dei designatori, alterando i confini tra le classi, creando nuove classi o assorbendone una in altra, in un'altra. Ma per la sua portata semantica, una lingua non è soltanto un insieme di usi collegati tra loro, essa è anche un sistema di strutture del mondo, che sono oggettive ed evidenti, all'interno delle quali certi fatti possono avvenire o non avvenire. Quando alcune strutture semantiche di una lingua si trasformano, certi fatti che erano possibili nelle corrispondenti strutture del reale diventano impossibili, mentre altri fatti diventano possibili. Ricordiamo che Emanuele Kant, nell'introduzione alla critica della ragion pura, presentando la distinzione tra giudizi analitici e giudizi sintetici, diceva che affermare che tutti i corpi sono estesi è fare un giudizio analitico, mentre affermare che tutti i corpi sono pesanti è fare un giudizio sintetico. Secondo il punto di vista dell'analisi semantica che cerco qui di esporre, il giudizio che Kant chiamava analitico è un aspetto in cui, attraverso la parte predicativa, vengono esplicitate alcune strutture semantiche della lingua impiegata. Tale che usare quella lingua significa implicitamente adottare quelle strutture, e la loro esplicitazione mediante il predicato può considerarsi come un'analisi del significato della parola che è in posizione di soggetto. Invece il giudizio sintetico è un aspetto in cui, facendo uso delle strutture semantiche della lingua impiegata, quindi in maniera sensata, viene attribuita a ciò che il soggetto designa qualcosa che non è incluso nel significato della parola in posizione di soggetto. Di conseguenza si ha un aspetto del quale non si può decidere a priori se sia vero o falso. Perché mai Kant riteneva che l'asserto alle Körper sind aufgedeckt fosse analitico? La ragione è che la lingua colta europea, le lingue colte europee del tempo, compreso il latino del tempo, avevano incorporato nelle loro strutture semantiche l'identità di significato fissato da Descartes fra le parole materia ed essenzio. L'operazione linguistica effettuata da Descartes nella Meditazione sulle prime filosofie nel 1640, pur creando inizialmente delle perplessità fra i dotti, era risultata molto utile nella formulazione della nuova scienza della meccanica, e nel giro di un secolo e mezzo era divenuta una evidenza oggettiva che tutti i corpi sono estesi, sebbene restassero difficoltà semantiche per coloro che non erano disposti a ritenere evidente che ogni estensione fosse corpo, cioè per coloro che ammettevano il vuoto. Invece, al tempo di Kant, le lingue colte europee non avevano incorporato nelle loro semantiche l'identità fra materia e peso, o materia e forza, a cui erano favorevoli le ricerche di Leibniz sulle forze vive. La dottrina di Newton sulla gravitazione universale e le prime analisi ponderali effettuate in fisica, soprattutto da Lavoisier. Vi si erano opposte il fatto che le ricerche di Leibniz erano rimaste poco note, il fatto che le idee di Newton avevano incontrato molta resistenza al di qua della maniglia e il fatto che l'analisi ponderale in fisica era ancora di recente introduzione. Per questo Kant riteneva che l'asserto alle forze rende sfere fosse sintetico, nel senso che i russi predicati aggiungevano un'informazione nuova al significato della parola collocata in posizione di soggetto. Se chiedessimo ai fisici odierni se per loro il significato della parola materia e il significato della parola, e della parola corpo include il significato della parola peso, probabilmente sarebbero in prima a rispondere che include il significato di questa seconda parola e non quello della prima. Essi mostrerebbero così che dal tempo di Kant a oggi le strutture semantiche delle lingue d'occio occidentali sono alquanto cambiate. Anzi, è il caso di dire che sono talmente cambiate in seguito all'introduzione dei concetti di forze elettromagnetiche e di forze nucleari nel concetto di materia e in seguito all'impiego della nozione di campo, che la domanda se è analitico che tutti i corpi sono estesi o è analitico che tutti i corpi sono pesanti deve essere considerata come non più formulabile perché è troppo ambigua. I designatori aggettivali sono quelle parole che in una data lingua designano qualificazioni di qualcosa che viene designato da un nome. I designatori aggettivali possono essere collegati in maniera diversa ai designatori nominali, o per una determinata collocazione rispetto ad essi, o grazie all'intervento di un altro morfema. La verità o falsità di un asserto si determina e si constata in un sistema di strutture oggettive ammesse nella realtà priva di ogni controllo sperimentale. E fra tali strutture, oltre a quelle che costituiscono i rapporti fra i designati dei nomi, ci sono rapporti oggettivi tra i designati dei nomi e i significati degli aggettivi. In quarto luogo va tenuto presente che come il sistema dei designati nominali varia di più o di meno da lingua a lingua, così varia di più o di meno il sistema dei rapporti tra qualificabili e qualificanti, anche se talvolta si può ipotizzare delle corrispondenze al fine di effettuare traduzioni. Il sistema dei designati nominali di una lingua è strettamente connesso al sistema dei designati aggettivali, con la conseguenza che nell'orizzonte di realtà che quella lingua si sottoscrive, il fatto che le cose si articolano secondo una determinata classificazione comporta che siano suscettibili di determinate qualificazioni e il fatto che sono suscettibili di determinate qualificazioni comporta che vadano classificate secondo certi rapporti e non altro. Si pensa alla parola latina esistenza che dopo essere stata usata sempre come designativo della qualificazione di existentis attribuibile a realtà come materia e corpo, fu reso da Descartes designativo della stessa materia di cui sono composti i corpi. Descartes non poteva né far constatare sperimentalmente né dimostrare argomentativamente che la materia è estensione, perché gli ultimi mistici esistenti fissati dalla dottrina aristotelico-scolastica della sostanza degli accidenti impedivano che Dio una tal cosa avesse senso. Egli poté solo presentare il nuovo uso linguistico che alterava quelli esistenti e rimaneggiare le strutture semantiche corrispondenti. Se questa sua innovazione non fosse stata adottata, non avrebbe avuto conseguenze nel campo delle evidenze oggettive dei dotti. Invece, essendo stata adottata, il campo delle evidenze oggettive dei dotti risultò a tal punto rimaneggiato da permettere ulteriori innovazioni attraverso la formulazione di enunciati di introduzione e altre modifiche nella semantica delle lingue dotte dell'Europa occidentale. Fu così che poteva nascere via via e avere in senso la dottrina kantiana del Io trascendentale. Dunque, allora io volevo ricordare i designatori verbali per ricordare l'opera di Lee Wort sulle lingue, soprattutto sulle lingue americane, sulla lingua Hopi, che conferma queste ricerche. E per giungere a una conclusione, farei notare il fatto che ogni lingua naturale modella la realtà secondo speciali strutture metafisiche, crea il dubbio che questo comporta un relativismo metafisico e una impossibilità di passare attraverso traduzioni rigorose da una lingua all'altra. È innegabile che le lingue diverse comportano visioni del mondo strutturate in maniere diverse, e la diversità può essere maggiore, minore o irrilevante, secondo che esse si sono evolute e maturate in condizioni di maggiore o minore estraneità, sia per la loro origine che per la storia di coloro che le hanno impiegate. Chomsky ha recentemente spiegato che assumere la visione del mondo che una data lingua comporta, cioè quella che si chiama lingua interiorizzata come oggetto di ricerca, costituisce uno spostamento verso il realismo. Le diversità tra le visioni del mondo che questo realismo ci permette di riconoscere fanno sì che ogni passaggio da una lingua all'altra espone a fraintendimenti più o meno gravi. In ogni caso però bisogna tenere presente che la stessa possibilità di effettuare traduzioni poggia non su di una realtà identica che soggiace a tutti i messaggi formulati in tutte le lingue, ma sugli sforzi che nel corso dei tempi sono stati effettuati per accostare le visioni del mondo soggiacendo alle varie lingue. E tra questi sforzi rientrano le traduzioni effettuate nel passato e la determinazione più o meno convenzionale di corrispondenze linguistiche fissate nei dizionari. Tuttavia, questi sforzi sono stati resi possibili dall'esistenza di strutture comuni a tutte le metafisiche. Queste strutture semantiche comuni vengono chiamate universali linguistici di genere semantico, o più semplicemente universali semantici, e sono oggetto di complesse ricerche da parte dei linguisti. Gli universali semantici aprono un capitolo a parte nella tematica delle metafisiche incorporate nelle lingue e permettono di riprendere quel discorso sulla metafisica descrittiva che fu delineato da Strawson nel 1959 e che sembra possa giungere alla determinazione di un nocciolo metafisico che si debba ammettere come evidente qualunque sia la lingua che si parla e qualunque cosa si dica. Prescindendo dai risultati a cui un tale discorso può approdare, il fatto che le strutture semantiche di una lingua si esprime in evidenze oggettive, che si usa la lingua stessa non può mettere in questione, lascia intendere come sia fondata affermare che nessun aspetto può essere puramente empirico, in qual senso nessuna informazione può aver luogo in un vuoto di evidenza. La parola e l'evidenza vanno insieme come due componenti della comunicazione linguistica. Grazie a Manuel Rivesi per la sua relazione molto tecnica.